Siamo qui per parlare del libro Buchenwald, ma prima io vorrei farvi vedere un video, un breve video che è stato realizzato da un complesso musicale di Bolzano, il Mosca Burro, che io trovo molto bello e che faccio stamattina, l'ho fatto vedere in una scuola media tedesca, lo faccio sempre vedere prima delle mie o dopo le mie conferenze nelle scuole, perché trovo che sia veramente poetico. Questo video i giovani l'hanno dedicato a Anja Spiegelman, la mamma di Art Spiegelman, l'autore del famoso libro Maus, un libro di fumetti in cui racconta la lotta, diciamo, con i soccombenti, gli ebrei soccombenti, che sono disegnati e descritti come topi e i nazisti sono i gatti. Spiegelman, un grande disegnatore del New York Times, ha fatto quest'opera che è stata diffusa in milioni di copie. I ragazzi di Bolzano hanno dedicato questo video alla mamma di Spiegelman, perché entrambi i genitori ebrei sono stati portati prigionieri, internati ad Auschwitz e sono sopravvissuti. E la mamma di Spiegelman, come purtroppo molti sopravvissuti, si è suicidata, si è uccisa molti anni dopo il suo ritorno negli Stati Uniti. E questo video dei ragazzi, dei Mosca Burro, è veramente, secondo me, qualcosa di significativo. È importante anche il sonoro, perché è una canzone che questi ragazzi di Bolzano hanno creato proprio per Anja Spiegelman. Thank you. Ecco, buonasera a tutti. Come potete vedere, avete visto, si può fare memoria in tanti modi, attraverso la musica, la canzone, la poesia. E questa sera scopriremo che si può fare memoria anche attraverso i disegni. Domani è la giornata appunto della memoria, come in febbraio ci sarà la giornata del ricordo. Sono giornate ufficiali che ci permettono di raccogliere un momento, di fermare un momento il nostro pensiero, le nostre considerazioni su quello che è stato, nella speranza che questo possa rappresentare un monito, una vaccinazione, diciamo, contro pericoli futuri. L'uomo è un essere un po' particolare che, come gli animali, memorizza il pericolo ma spesso dimentica, ecco, lo supera, e tante volte lo vediamo anche nei giorni nostri. Forse certi episodi della storia non sono serviti particolarmente, ritorniamo ad avere dei campi profughi, dei campi tra virgolette di concentramento, e quindi oggi più che mai è importante vedere quello che è stato per evitare che succeda di nuovo, e non relegarlo a semplici parole e intenzioni, ma cercando di concretizzare con delle azioni e soprattutto con un percorso di lettura e di approfondimento, che è poi lo scopo anche della biblioteca. Abbiamo preparato qui una vetrina, abbiamo organizzato questa iniziativa grazie alla disponibilità e al suggerimento dello stesso avvocato Lohner, che ricordo è stato difensore della parte civile nel processo Seifert, un processo importante che ha coinvolto la città di Bolzano anche in maniera molto intensa e anche emotivamente parlando, negli anni, più di 10 anni fa, intorno agli anni 2000. Ecco, questa sera siamo qui e ringrazio ancora una volta l'avvocato Lohner, oltre che l'ANPI di Bolzano, e qui con noi anche il presidente Orfeo Donatini, e l'ANED, che ha contribuito alla realizzazione di questo volume, e la stessa associazione scrittori altoatesini che ha sostenuto questa iniziativa, perché l'avvocato Lohner ha avuto la lungimiranza e la capacità di cogliere il valore di un tesoro scovato anni fa in un, ecco, a Berlino, dei disegni. Quindi questa sera si rievocheranno certi episodi della storia, della nostra storia recente, attraverso dei disegni che hanno una carica in più rispetto alla fotografia. I documenti che noi vediamo sono reportage fotografici o che abbiamo impressi nella memoria nostra, successivi spesso a quello che è stato, mentre i disegni sono dei disegni di prigionieri che hanno vissuto e che si sono dovuti arrangiare alla bella e meglio in un momento di grandi privazioni per esprimere e trasmettere quello che è stato il loro vissuto, quella che è stata la loro tragica esperienza. Non aggiungo altro, inviterei un attimo Orfeo Donatini e Alberto Pasquali, così ad aiutarci nell'introduzione, per poi cedere subito la parola al nostro gradito ospite. Grazie. Buonasera a tutti, mi scuso per il ritardo, ma come sicuramente sapete anche voi, il traffico bolzanino a volte riserva qualche sorpresa. Allora, noi come ANPI, assieme alla Biblioteca Claudia Augusta, per il Giorno della Memoria, commemorare il Giorno della Memoria, abbiamo promosso alcune iniziative. Una di queste è quella di questa sera, presentando il libro Buchenwald, grazie all'azione e alla lungimiranza, vorrei dire, oltre che all'impegno civile, dell'avvocato Arnaldo Lohner. E giusto l'altra sera, le illustrazioni di questo libro, le tavole, sono state presentate, inaugurate, e è stato per me un piacere essere con l'avvocato Lohner a Rovereto, in centro città. Una mostra davvero bellissima, e a Bolzano l'abbiamo avuta al Cristallo lo scorso anno, e particolarmente apprezzata non soltanto dalla popolazione un po' grigia come me, ma soprattutto dai giovani, molte le scuole che si sono già prenotate per andare a visitare quella mostra. Noi siamo impegnati quotidianamente per difendere e promuovere la memoria, e la si deve difendere e promuovere non soltanto nel giorno della memoria, perché perché non basta un giorno all'anno per difendere la memoria, deve essere un'azione che ci vede impegnati tutti quanti, giorno dopo giorno, perché nulla va dato per scontato. Quando noi parliamo di tragedie come quella di Buchenwald o della Shoah, parliamo di avvenimenti di 70-75 anni fa. Per la vita umana sembra una cosa molto lunga, in realtà per la storia è forse un battito di ciglia. E quindi questo che cosa deve portarci a considerare? Che l'attenzione, l'impegno civile nei confronti della democrazia e della pace deve essere quotidiano. Non dobbiamo, ripeto, mai dare nulla per scontato, e fare memoria non è una cosa né per vecchi né vecchia e polverosa. È conoscenza soprattutto per le giovani generazioni, perché noi abbiamo delle responsabilità, le giovani generazioni hanno la responsabilità di conoscere che cosa è avvenuto per garantire a loro stessi e alle future generazioni che quegli errori tragici della storia di 70 anni fa non abbiano più a ripetersi. Noi, accanto a questa iniziativa di questa sera, promuoveremo poi altre due iniziative, una in particolare molto molto bella a mio avviso, è quell'appuntamento di domenica 29, domenica prossima, alle ore 18 al Teatro Cristallo, con una rappresentazione teatrale e un concerto assieme. È una proposta artistica molto interessante, che verrà proposta gratuitamente alla città da parte dell'Orchestra Giovanile del Garda di Desenzano. È una proposta che si chiama Oltre il Muro, e il riferimento è al nostro Lager di Bolzano. È un progetto artistico inedito che verrà presentato a Bolzano domenica, ed è una cosa alla quale, un appuntamento al quale mi permetto di invitarvi davvero di cuore tutti quanti, perché sarà un messaggio molto interessante, molto, molto bello, molto anche coinvolgente. L'altro, terzo appuntamento invece che abbiamo promosso è con la presentazione del libro di Sabine Meyer e Joachim Innerhofer della comunità ebraica di Merano. Presenteremo il loro libro Quando la patria uccide il prossimo 6 febbraio in questa sala, sempre in collaborazione con la biblioteca Claudio Auguste. Biblioteca, istituzione culturale di prim'ordine, e ringrazio per questo la direttrice Valeria Trevisan, che è sempre molto attenta e molto disponibile, e con la quale abbiamo da sempre collaborato e collaboreremo ancora di più in futuro, posto che destineremo alla Biblioteca Provinciale in Lingua Italiana Claudia Augusta il nostro fondo librario, la nostra biblioteca, che è dedicata alla Resistenza e alla Shoah, e che potrà essere quindi catalogata, custodita, gestita come solo la Biblioteca Claudia Augusta sa fare, a beneficio di tutti coloro che vorranno approfondire queste tematiche. Anche questo, a mio avviso, è fare in memoria. Vi ringrazio perché vi vedo numerosi a questo appuntamento, il che significa che possiamo essere speranzosi per il futuro, anche perché i segnali, sia quelli internazionali, sia quelli europei, sia quelli nazionali e anche bolzanini, non sono certamente incoraggianti in questo senso. Si costruiscono muri, si pensa di risolvere enormi problemi sociali e enormi disuguaglianze socio-economiche con il filo spinato. Sono scelte che ci ricordano ben altre tragedie e che assolutamente non vorremmo mai rivedere. Vi ringrazio. Grazie. Cari amici, io porto il saluto dell'Associazione Scrittori Bolzano, di cui Arnaldo Lohner è uno degli insigni soci. Arnaldo Lohner, lo conoscete tutti a Bolzano per il suo impegno civile. Io ho una particolare amicizia che ci lega da oltre 60 anni, purtroppo dobbiamo parlare di 60 anni, dai tempi del liceo classico. E devo dire, ci siamo sempre tenuti in contatto. Lui non è stato solo ma è un grande avvocato, ma è uno dei più grossi bibliotecari d'Italia, ha una biblioteca privata eccezionale e da alcuni anni si è dedicato al studio del periodo storico della Shoah e quindi si è dedicato con un autentico impegno civile a ricostruire la memoria di quel triste periodo della persecuzione degli ebrei, e ne sono usciti alcuni capolavori, e questo è Buchenwald, e sarà un libro interessantissimo per tutti voi, e soprattutto io gli faccio i miei più vivi complimenti perché lui non solo lo ricorda con i libri, ma va in giro per l'Italia a insegnare nelle varie scuole la memoria di quel triste periodo. Allora, caro Arnaldo, tanti auguri e tanti complimenti. Grazie. Buonasera. Allora, diciamo com'è nato questo libro e cosa significa la funzione di questo libro, che credo che sia ben nota, senza me è opportuno forse anche parlarne. Allora, come nasce questo libro? Nasce da una figura, da un'immagine. Io ricevo un catalogo da una casa d'aste di Berlino che offre in vendita libri esauriti, libri di un certo pregio, stampe, e l'arrivo di un catalogo per un appassionato di libri, e io appartengo a questa, non so se felice o infelice categoria, veramente Goethe ha detto Sammler sind glückliche Leute, i collezionisti sono persone felici, non so se risponda alla verità, però sono persone che cercano attraverso qualche spiraglio di realizzare un margine di felicità. Quindi ricevo questo catalogo e lo sfoglio. Come ha scritto Giuseppe Pontigia, l'arrivo del catalogo per un appassionato di libri è una specie di grande avvenimento. C'è quasi una tensione, perdonate, erotica nello sfogliare il catalogo, perché è tutto un mondo che ti si presenta ed è a tua disposizione. Tu vedi decine e decine di libri e sai che, se i mezzi te lo permettono, ci sono quelli che hanno un prezzo più accessibile, quelli più costosi, sai che se i mezzi te lo permettono, e se non sei stato, questa è l'ansia del collezionista, e se non sei stato già preceduto da qualcun altro, hai la possibilità di afferrare, di attingere a quel mondo. Io sfoglio il catalogo e questi cataloghi hanno anche delle illustrazioni e vedo questa figura, che però diciamo, questa, la figura vera è dentro, la vedrete se vedete il libro, ha un colore verde, del cielo verde, è un albero scheletrito che si erge contro il cielo con un'immagine di grande forza espressiva. Questa figura mi attira perché giustamente c'è chi ha detto che l'illustrazione vale più di mille parole, l'illustrazione è come i raggi X, penetra, vede attraverso. Vedo questa immagine e leggo che si tratta dei disegni di due prigionieri francesi realizzati nel campo di Buchenwald, e è una cartella, non è un libro, è una cartella che contiene 78 disegni e che contiene anche degli scritti dei due francesi, raccolta e pubblicata nel 1946 in un numero limitato di copie. Allora io faccio un'offerta a questa casa d'asta, però ero perplesso, io ho fatto un'offerta superiore al prezzo base, però dicevo, ma se la compreranno i tedeschi? Non credo, perché voi sapete che quando c'è un'asta, chi è presente basta che alzi la mano e supera l'offerta fatta per iscritto. Io ho fatto un'offerta scritta, non sono andato a Berlino ovviamente all'asta. E poi però mi arriva una lettera in cui mi si dice: lei si è aggiudicato il libro, arriva la cartella il cui contenuto io non conoscevo, e la apro e vengo naturalmente colpito dalla straordinaria forza di queste immagini. Questi due francesi, prigionieri a Buchenwald dal 43 al 45, hanno disegnato l'intero funzionamento del campo di Buchenwald. hanno disegnato dei veri momenti di verità. Tra l'altro non sono due pittori della domenica, non sono due dilettanti, sono due artisti di grande capacità espressiva e con gravissimo rischio hanno disegnato i momenti della vita del campo. Addirittura Magnà dice, scrivendo la sua, una bellissima memoria che è all'interno del libro: noi per avere la carta davamo il pane, a volte per procurarsi la carta davano il pane, davano una parte di quella scarsa alimentazione che ricevevano nel lager. Ma tornando a quella figura illuminante, cosa rappresenta quell'albero? Quell'albero è la famosa quercia di Goethe. Goethe abitava a Weimar, a circa 7 chilometri di distanza da Buchenwald. Percorreva, non tutti i giorni ma spesso, una distanza di 7 chilometri per recarsi sotto questa quercia a meditare, a riposare. Ci è andato persino con Schiller, come scrive anche Magnà, che è un umanista, come scrive Magnà nella sua memoria. E quindi questa quercia era un luogo di riposo e di meditazione per questo grande poeta. Quando nel 1937 i nazisti costruiscono il lager di Buchenwald, abbattono 150 ettari di faggi, perché Buchenwald è faggio, questa era la foresta di faggi, però lasciano al centro del lager praticamente la quercia di Goethe, perché era un albero naturalmente che aveva una funzione simbolica, rappresentativa del grande. Non la toccano, salvo poi impiccarci prigionieri, perché nella figura si vede una corda, nella figura della quercia disegnata dai due francesi si vede una corda che penzola da un ramo, perché veniva usata per impiccarci i prigionieri. Come mai questo albero affascina così tanto il grande Goethe, e non solo, affascina anche altri poeti? La quercia in realtà era un albero sacro per i greci, per i romani, era un albero sacro per i celti, che sotto la quercia i druidi, si racconta, celebravano le loro cerimonie. Era un albero che aveva veramente una funzione sacrale. Ma se noi andiamo con la memoria alle scuole medie, alle elementari, forse ricordiamo che Giovanni Pascoli scrisse La quercia caduta, una bellissima piccola poesia che ci facevano imparare a memoria, dove dice: non più coi turbini tenzona, la quercia è caduta, questo gigante, perché la quercia è un simbolo di maestoso, di longevità, perché è un albero secolare. Non più coi turbini tenzona, non combatte più con le tempeste. E la gente dice: or vedo, era pur grande, perché quando è caduta, quando questa massa di rami è caduta al suolo, la gente nota la grandezza di questo albero. Tornando a... ricordo che Umberto Eco, in un'intervista fatta a un giornalista francese, che gli aveva chiesto: ma se lei potesse reincarnarsi, in che cosa vorrebbe reincarnarsi? E Umberto Eco ha detto: in un gabbiano o in una quercia. E allora il giornalista ha detto: no, guardi, professore, deve scegliere. Eco ha detto: la quercia. Quindi questo albero veramente ha questa funzione, è il genius loci, è come lo chiamavano i latini, anche oggi gli architetti usano questa espressione, questa quercia possente che si alza, che svetta nel cielo al centro del campo. Prima che fosse costruito il campo era il genius loci, poi viene profanata, diciamo, dalle impiccagioni, viene profanata da quel luogo di terrore che la circonda. Ora, i due francesi, Magnà e Favier, hanno disegnato tutto, persino non l'inizio della vita del campo, persino il viaggio. Ci sono alcune di queste immagini che sono angoscianti, si vede la gente pigiata nei vagoni con delle espressioni di dolore, ricordano dei visi che ricordano il famoso urlo di Munch, stando al dato estetico. Questa gente pigiata nel vagone che viaggia per giorni senza acqua, senza cibo, con un grande bidone al centro del vagone che serviva per la soddisfazione dei bisogni. Uomini, donne, bambini, pigiati, non avevano neanche spazio per sdraiarsi, e loro disegnano tutto, disegnano l'arrivo, la discesa dal vagone, i cani che con le SS che arrivano, li bastonano, i cani che mordono, i morti dentro il vagone, perché molti arrivavano alla fine, alla meta, arrivavano morti, non arrivavano più vivi. Tutta la vita del campo viene disegnata. E perché è estremamente importante questa illuminazione visiva? Perché noi non abbiamo documentazione del funzionamento del campo. Noi abbiamo una grande documentazione del momento della liberazione, quando i russi, gli inglesi, gli americani hanno fotografato e hanno anche ripreso, hanno fatto dei film sulla situazione dei campi all'atto della liberazione. Abbiamo cumuli di cadaveri, abbiamo situazioni spaventose, ma non abbiamo il funzionamento del campo. Era assolutamente vietato, i nazisti si rischiava la vita disegnando, i nazisti punivano con la morte chi faceva queste rappresentazioni. Non solo, i nazisti hanno cercato di cancellare tutte le tracce, facendo addirittura saltare le camere a gas e i forni crematori. I nazisti non volevano che si sapesse, che si documentasse. Primo Levi, nella prefazione al suo bellissimo libro I sommersi e i salvati, dice: le SS ci canzonavano, ci irridevano, ci dicevano: badate, nessuno di voi sopravvivrà per documentare, per dimostrare quello che succede ad Auschwitz. Ma se anche voi doveste sopravvivere e doveste cercare di raccontarlo, nessuno vi crederà. Quindi questi due francesi non disegnano solo per il piacere così di fare, di svolgere la loro attività artistica o soltanto, disegnano per far conoscere, per comunicare, per rappresentare, rischiano la vita e sono stati anche in parte fortunati perché sono riusciti, una parte degli incendi sono stati distrutti da un grande bombardamento, ma una parte dei disegni sono riusciti a salvarli nascondendoli e poi portandoli, sono datati, c'è scritto 43-44, sono firmati, sono quindi sono documenti storici, sono veramente, come dicevo prima, momenti di verità. E la funzione finale di questo libro, io non vi voglio trattenere troppo lungo, ma vorrei ancora dire qualcosa sulla memoria, sulla funzione finale di questo libro. Tra l'altro noi abbiamo contattato uno dei due francesi, Magnà, è morto pochi anni dopo la liberazione, morto di tubercolosi perché aveva contratto la tubercolosi, l'altro è vissuto più a lungo. Noi abbiamo contattato il figlio ancora vivente, che abbiamo chiesto l'autorizzazione perché non era mai stato pubblicato un libro su questa casa, e lui ha detto, perché poteva vantare anche dei diritti, ha detto: pubblicate, non ha chiesto nulla, come ovviamente anch'io ho messo a disposizione, siccome vi sto dicendo che all'ingresso, volendo, potete comprare il libro, vi dico subito che io non riceverò un centesimo dalla pubblicazione, non sono interessato economicamente, ecco, non vorrei che si pensasse a una funzione propagandistica. All'ingresso c'è uno della Mardi Gras, della libreria Mardi Gras, potete comprare il libro. Questo libro quindi è un documento, è un pilastro del ricordo ed ha quella funzione. Vorrei concludere con quello che è così un mio compito che mi sono assunto stamattina, appunto sono stato in una scuola media tedesca, di dare un piccolo contributo alla memoria. La memoria, il ricordo, prima di tutto è un dovere ovviamente verso i sopravvissuti, verso le vittime, verso i loro familiari. Noi dobbiamo ricordare, perché dobbiamo ricordare queste vite che sono state brutalmente stroncate. Io ricordo che Simon Wiesenthal, poco prima di morire, in un'intervista, il grande cacciatore dei criminali nazisti, che ha assicurato alla giustizia più di mille criminali nazisti, tra cui Eichmann, tra cui il colonnello che aveva arrestato Anna Frank in Olanda, quest'uomo che ha dei meriti straordinari, in un'intervista pochi mesi prima della sua morte aveva detto: guardate, io quando mi recherò nell'altro mondo penso che mi verranno incontro i morti dei campi di sterminio e mi chiederanno: ma, e chiederanno: cosa avete fatto? Dice uno, risponderà: io ho fatto il medico, ho curato i pazienti. Un altro risponderà: io ho fatto l'architetto, ho costruito le case. Io risponderò soltanto: io non vi ho dimenticato. Quindi questa è la memoria come dovere, ma non basta. La memoria serve anche a noi, non serve solo alle vittime, ai sopravvissuti, serve a noi per realizzarci come persone, per conoscere, per sapere, per crearci degli anticorpi. La memoria è fondamentale anche per la nostra realizzazione di esseri umani, di persone. E terzo significato per me ancora fondamentale della memoria: la memoria è una difesa. La memoria è una difesa che possiamo porre al risorgere dei fantasmi del passato. Noi ci sono i negazionisti che negano i crimini nazisti, che dicono che Hitler era un bravo uomo. Ricordo che a Bolzano noi abbiamo 3 consiglieri di Casa Pound. Ricordo che in Alto Adige c'è gente che festeggia il compleanno di Hitler. Ora, questi documenti che sono inoppugnabili, che sono la voce degli oppressi, la voce delle vittime, che vengono dall'interno, sono testimonianze dirette, quelle testimonianze che ormai sono scomparse, perché coloro che, i testimoni diretti, coloro che possono raccontare, la memoria vissuta è finita, anche se racconto un piccolo aneddoto. Sere fa ero a Merano a un dibattito sul Judenopfer, le vittime ebree, e stavo dando questo libro di Buchenwald a un rappresentante della comunità israelitica di Merano. Mi si avvicina un signore, un omino piccolino, che io più o meno avevo pensato avesse all'incirca la mia età, e lo vedo interessato al libro. Dico: a lei interessa Buchenwald? E lui dice: ma guardi, io sono stato 4 anni nei lager nazisti, sono stato prima a Auschwitz, poi a Dachau, e poi gli americani mi hanno liberato a Buchenwald. Allora mi è venuto un sospetto, dico: ma questo qua non deve essere più vecchio di me. Dico: scusi, lei quanti anni ha? 103. 103. E io gli ho detto: haben Sie ein Ausweis? Ha un documento? No, perché dico, non ci credevo, mi sembrava mio fratello. E lui tira fuori la carta d'identità, una testa, e vedo 20 maggio 1913, quello fra 4 mesi c'ha 104 anni. Però quella è l'eccezione. Ricordo, sono stato colpito da una vecchia ebrea che, facendo un'intervista alla Repubblica, ha detto: fateci delle domande, siamo gli ultimi, perché sono gli ultimi. E allora un libro come questo porta avanti questo messaggio, questa testimonianza, ed è una difesa, come dicevo, contro il risorgere dei fantasmi del passato. Grazie. Qualcuno ha qualcosa da chiedere? Eventualmente a disposizione. Il libro è qua e voi apprezzerete. Io non ho il coraggio di dire che sono immagini bellissime, perché mi sembra un aggettivo inidoneo, inadeguato. Sono immagini, definiamole pure così, straordinarie. Posso chiedere, ci sono ancora a Bolzano dei reduci dei campi di concentramento o sono morti? No, che mi risulti non ce ne sono più. Io ho fatto una volta un dibattito a Belluno e c'era un certo Ferronato. Se andiamo a campi di concentramento, ce n'è uno che si chiama Bruno Bertoldi, e ha 98 anni e va in bicicletta. Ma dov'è? Qua a Bolzano? Bruno Bertoldi, hai ragione. Ce ne sono pochi, è suo parente, non so niente. Va in bicicletta e porta Lionello sulla canna, questo è bello. Va in bicicletta e porta Lionello sulla canna, capito? Sulla canna della Cefalonia, catturato dai nazisti, portato nei campi nazisti, poi portato nell'Unione Sovietica, liberato dai sovietici per disgrazia, è portato fino nei campi di cotone dell'Uzbekistan. Beh, posso dire. È tornato indietro nel dicembre del 1945. Ecco qua una delle memorie della memoria, Bertoldi. Comunque posso dire che io sabato andrò a Verona, dove viene presentato il libro, e parteciperà alla presentazione del libro Salomon di Genova, che non so se è uno psicologo o uno psichiatra, che è stato a Buchenwald e che ha 93 anni, e verrà a Genova alla presentazione del libro. Ancora grazie.